Ciao compagne e compagni che seguite Radio Silo, riprendiamo le trasmissioni seppur registrate. E diciamo, è chiaro che il nostro spirito, non solo di chi vi parla, ma di tanti compagni, non ha quella tranquillità nella guerra. La dichiarazione della guerra da parte dell'Italia, la dichiarazione di guerra dell'Italia alla Russia, è chiaro che non ci fa dormire sogni tranquilli, ma non so, solo questo, ma anche l'escalation militare, insomma, e chissà cosa ci aspetta, insomma, è chiaro che non ci aspetta nulla di buono, vedendo i climi, qua parlano come niente, cioè così come se fosse acqua fresca di armi nucleari e via dicendo. Noi diciamo, questa trasmissione doveva essere diversa perché domani ricorre un anniversario, perché nel maggio noi occupammo e prendemmo, entrammo in questa struttura, scena sociale, all'epoca asilo politico, attuale Jan Hansen, era maggio del 93, tra il 13 e il 14 maggio, e al maggio 22 2022, sono passati più di 29 anni, infatti siamo entrati nel 30° anno di esistenza, o meglio la parola usiamo la parola resistenza. Però è chiaro, come ho detto all'inizio, non c'è nulla da festeggiare, non c'è nulla da festeggiare per tantissimi motivi, anche perché è chiaro che come compagni, noi dobbiamo mantenere sempre una certa lucidità, l'entusiasmo, e che è molto difficile in questi periodi. Prima la pandemia, ora la dichiarazione di guerra dell'Italia alla Russia, con il pericolo di un coinvolgimento diretto dell'Italia nella guerra mondiale, che rientra nei piani imperialisti degli USA, della NATO, con l'incubo dell'uso delle armi atomiche. È chiaro che, come dire, come detto prima, anche se non c'è nulla da festeggiare, abbiamo il dovere, la consapevolezza e la cocciutaggine di evidenziare questo dato politico locale della nostra città, che è rappresentato dal 29° anno di vita del nostro centro sociale. È chiaro, con l'augurio e con tutti i debiti scongiuri del caso, di poter festeggiare in modo classico festaioli il 30° anno nel maggio del 2023. Ed è chiaro che noi, nonostante tutto, comunque politicamente, con onestà e umiltà, continueremo nella prassi di resistenza, di autonomia e di diffusione della cultura resistente e dell'autogestione a Salerno, così come della solidarietà internazionalista, per l'urgente uscita dell'Italia dalla NATO. È chiaro che parlare degli spazi autogestiti come centro sociale ci pone il dovere e la necessità da parte di noi tutti di resistere anche per controinformare, quindi anche l'utilizzo, seppur diciamo in modo per tanti motivi, non facciamo più ancora diciamo, le trasmissioni in diretta dal centro, ma sarà questione di momento. Di momenti. Chiaro che noi dobbiamo utilizzare tutti i nostri mezzi, seppur esigui, per controinformare sulla propaganda, sul culto e l'elogio della guerra a cui stiamo assistendo ormai da 3 mesi, legata all'attuale conflitto russo-ucraino, per cui, come abbiamo detto prima, per il quale il governo italiota ha dichiarato guerra alla Russia su ordine degli americani e della NATO. Dobbiamo controinformare per accusare lo Stato israeliano di apartheid, e riportiamo anche un report di Amnesty International che Israele impone un sistema di oppressione e dominazioni sulle e sui palestinesi in tutte le aree sotto il suo controllo. In Israele, nei territori occupati, e contro i rifugiati palestinesi, in modo che a beneficiarne siano le e gli ebrei israeliani. Questo è il report di Amnesty International e di altri organi indipendenti non governativi. E poi, a proposito di Israele e sulla controinformazione, ricordiamo che mentre gli occhi di tutto il mondo sono puntati sull'Ucraina, Israele e la Turchia, che ricordiamo sempre stati neofascisti, come lo sono tutti quei stati fondamentalisti, etnici, religiosi, con i propri eserciti ed apparati militari di aggressione, sono costantemente impegnati nella sistemica opera di genocidio del popolo curdo e palestinese. E a proposito, ricordiamo la giornalista Abu Akleh, di 51 anni, report di Al Jazeera, che è stata uccisa a sangue freddo pur indossando il giubbotto che indicava essere un membro della stampa, mentre riprendeva nei pressi di Jenin l'operato dell'esercito di occupazione israeliana. Dobbiamo controinformare sulle stragi sul lavoro. Ogni giorno, dal nord al sud d'Italia, in nome dello sviluppo del profitto capitalistico, 3 esseri umani, donne e uomini, ogni giorno muoiono nei posti di lavoro, proprio per l'assenza di ogni forma di tutela, di sicurezza e per i tempi di lavoro e sfruttamento. Dobbiamo controinformare sull'umanità già resa sempre più disperata e precaria, che dopo gli anni di pandemia da Covid-19 sta peggiorando la propria esistenza per il notevole aumento del costo dei beni di prima necessità, per la sanità sempre più privatizzata, resa non più un diritto ma privilegio, così per la scuola. Dobbiamo controinformare sull'aumento vertiginoso dei disoccupati e dei precari, con un ambiente sempre più messo a rischio devastazione anche a causa dell'economia di guerra, che ricordiamo sempre non voluta e non accettata dall'80% della popolazione italiana. Ed è in questo clima che appunto la ricorrenza dei 29 anni del nostro centro sociale pone necessariamente domande, riflessioni e timori sugli scenari politici e le prospettive che poi attendono il resto dei centri sociali in Italia, nella faticosa e, diciamo, a volte titanica opera di tenere in vita tali forme di resistenza, in special modo nel post-pandemia da coronavirus ed in questo clima di guerra. Quindi ripartire dai centri sociali per la riproposizione di un protagonismo, antagonismo, che sappia interpretare non solo i bisogni delle nuove generazioni di militanti, ma che anche essere in grado di fornire utili contributi affinché una nuova generazione politica, attraverso la diffusione della cultura dell'autogestione, anche per iniziative aggregative, culturali, musicali, come da 3 anni si stanno svolgendo presso il nostro centro sociale. L'autogestione come forma emancipativa per le nuove generazioni, affinché siano in grado di determinare conflitti sociali di classe sganciati da varie alchimie politiche e camaleontismi vari di una qualsivoglia sinistra, neosinistra, sinistrata, che smemora dei guai combinati in passato, continua imperterrita a riproporre percorsi e metodologie sconfessate dalla gente, anche da un punto di vista elettorale. I centri sociali per la difesa della memoria storica dell'antagonismo di classe, sia localmente che a livello nazionale che meridionale, per una nuova generazione militante in grado di agganciare l'impegno politico e i bisogni reali della povera gente. L'impegno ai centri sociali che è in grado di rappresentare un valido antidoto alle barbarie e alle guerre. Quindi maggio 2022 non c'è nulla da festeggiare, con l'auspicio, sempre facendo i debiti scongiuri, di un maggio 2023 all'insegna del nostro patrimonio culturale, musicale e artistico. In pratica, in questo è anche il comunicato, una comunicazione su questo anniversario che, nonostante tutto, è fondamentale valorizzare, perché è un dato politico. 29 anni sono 29 anni e siamo entrati nel 30° anno d'età, e mai ci saremmo aspettati di riassistere alle atrocità, la barbarie della guerra. Però neanche ci saremmo aspettati di assistere a un'altra situazione, una situazione che è, per cui questo elogio alla guerra, l'interventismo, questa sudditanza alla NATO, dovrebbero vergognarsi tutti quei giornalisti che poi si chiamano democratici, garantisti, difensori della libertà di stampa. Facciamo dei nomi a caso: Mentana, Fornigli, Bianchi, Giannini, ed è lungo l'elenco, che sostengono i rifornimenti militari del governo italiota al reggimento nazionale neonazista Azov. In pratica si traduce in questo, perché la punta di diamante, dell'esercito ucraino, che ricordiamo essere non un manipolo di persone, ma è un vero e proprio esercito con 200, si parla di 200.000 unità, 200.000 militari, con armamenti che avanzati, quindi altro che le Molotov o lotta di popolo, come noi la intendiamo, o come ce la volevano far intendere proprio all'inizio di questa propaganda di guerra. Ed è proprio sul concetto di propaganda di guerra che quei giornalisti che abbiamo citato prima, ecco, mi dimenticavo Flores, che dovrebbero proprio vergognarsi. Cioè, noi lo sappiamo bene che in guerra, ed è chiaro, in ogni guerra si consumano tante nefandezze, atrocità, barbarie, che nessuno vorrebbe e dovrebbe vivere, sia per le vittime civili, per gli esodi, le devastazioni e distruzioni, che è anche per un'altra vittima, che è l'informazione che viene negata, viene distorta, quindi si distorcono le verità, e che tutto ciò avviene attraverso l'uso della propaganda di guerra. Propaganda, culto ed elogio della guerra è tutto ciò a cui noi stiamo assistendo da 3 mesi, da quando è iniziato le attuali operazioni militari russe in terra ucraina. Noi, è chiaro che, come abbiamo detto in altri contributi, non ci saremmo mai aspettata che la fortezza Europa civile arrivasse addirittura alla violazione di quei principi di civiltà e di comunanza pacifica, basata sul comune intento che mai più fascismo e guerre si sarebbero riproposti nel mondo, dopo la sconfitta del nazifascismo, che bene sembra ricordare, è avvenuta grazie all'Armata Rossa, all'eroica resistenza del popolo russo e dei partigiani antinazifascisti europei ed internazionali. La stessa Costituzione e Parlamento dell'Unione Europea, come le Costituzioni adottate dai singoli Stati che lo compongono, si basavano prettamente sul rifiuto della guerra come risoluzione dei conflitti e delle controversie geopolitiche tra gli Stati. i principi ed intenti di cui sopra sono stati sacrificati, cancellati, e ciò è reso palesemente evidente dall'arrogante e massiccia propaganda mass mediatica di guerra, che quotidianamente, in modo irresponsabile ed incosciente, si basa su continue lotte alla guerra, alla corsa di armi, anche nucleare, sempre a causa della totale sudditanza dalla NATO. E diciamo, questo è anche riferito alla data del 9 maggio del 1945, dove ufficialmente avvenne la sconfitta del nazifascismo. E ricordiamo che questa data è importante, perché è una data che diciamo da cui ne deriva un insegnamento non solo dal popolo sovietico, ricordiamo l'eroica resistenza che poi si trasformò in offensiva da Stalingrado del 2 febbraio 1943, oppure in Italia con Piazzale Loreto il 29 aprile 1945, ma da tutte quelle nazioni europee liberate dal nazifascismo, con il sacrificio di milioni di combattenti per la liberazione, che è l'insegnamento che proveniva da questi sacrifici umani, era da questo sacrificio di tantissime donne, uomini, combattenti per la libertà, partigiani, era quello di debellare, di impedire anche culturalmente ogni e qualsiasi tipo di rigurgito dei fascismi. Così come l'insegnamento è che che proviene da sacrifici di tantissime umanità resistente e combattente, è quello che è la prevenzione e ogni riferimento ideologico culturale alla guerra, prevenire ogni riferimento ideologico culturale alla guerra come forma relazionale tra popoli e nazioni. Però, da quel 9 maggio 1945, a qualche mese dalla sconfitta del nazifascismo, quegli intenti, quei sogni per cui si sono sacrificati un'enorme umanità, i sogni di ricostruzione di un nuovo mondo basato sull'equità e la solidarietà contro ogni forma di barbarie, furono infranti la mattina del 6 agosto 1945 alle ore 8:15, allorquando l'aeronautica militare statunitense sganciò la prima bomba atomica, Little Boy, piccolo ragazzino, e sulla città di Hiroshima, che è seguita tre giorni dopo dal lancio di una seconda bomba atomica, Fat Man, uomo grasso. E anche questi nomi, come dimentichiamo sempre l'operazione Piombo Fuso israeliano, no? Questo cinismo, questo disprezzo per la vita umana che si permette anche di ridicolizzare gli esseri umani che sarebbero stati sacrificati per le bombe. È chiaro che, come devo dire, l'imperialismo americano pose con questi ordigni di distruzione di massa una vera spada di Damocle sull'aspirazione di autodeterminazione dei popoli, protesi all'epoca al comunismo e dal socialismo anche libertario, ma anche a nazioni che non inclini alla guerra. E l'Italia, per la famigerata data del 18 aprile 1945, con la famigerata data del 1948, scusatemi, divenne un punto strategico ed imprescindibile dai piani strategici coloniali imperialisti USA, grazie anche al Partito della Democrazia Cristiana. E poi facciamo un riferimento più avanti, spiegherò perché questo riferimento alla Democrazia Cristiana di Alcide De Gasperi, e perché la nostra sudditanza la nostra sudditanza agli americani e alla NATO, ne siamo diventati una portaerei e un aeroporto militare della NATO e degli americani. E caso strano, non a caso, ecco, una volta dire non si dorme più, è vero, si è persa proprio la tranquillità per questa situazione. E ritorniamo alla Democrazia Cristiana, a quel 18 aprile del 48. La mafia italoamericana del Vaticano, insieme alla Democrazia Cristiana, divennero i riferimenti principali in funzione anticomunista. Proprio i riferimenti delle politiche imperialiste USA e, diciamo, quelle che possiamo considerare per gli sviluppi che ci sono stati nei decenni a seguire, tale associazione a delinquere il 18 aprile 1948 alle prime elezioni politiche nell'Italia, questa associazione a delinquere contribuirono alla vittoria della Democrazia Cristiana di De Gasperi, specie nel sud Italia, per il ruolo che ebbero le varie chiese disseminate in tutti i paesi, il ruolo che ebbero le chiese in tutte le fasi elettorali. A cui, è chiaro, si aggiunsero gli ingenti finanziamenti per la ricostruzione post-bellica per il piano Marshall. E ricordiamo le campagne mediatiche di quel periodo con gli slogan, no? Nel segreto dell'urna Dio ti vede, Stalin no, le orde bolsceviche che violentano le donne, fecero sì che l'Italia divenne un'altra stelletta posta sulla bandiera USA, con tanto di basi militari, aerei, navali e terrestri ed armamenti atomici sparsi in tutto il territorio italiota. A questo punto è chiaro che non possiamo sopportare, no, che dopo tutti i guai e disastri combinati dalla DC, specie nel sud Italia, proprio da quel 1948, insomma, comunemente dobbiamo assistere ai vari talk show delle televisioni, sia pubbliche che private, noi dobbiamo assistere stomacovolmente al tabacci di turno. Questo era un vecchio democristiano che viene sempre chiamato, specialmente da Floris, ma non solo, viene sempre invitato in queste trasmissioni con i suoi lapsus freudiani volutamente espressi, che confondono, che questi Freud lapsus confondono spesso e volentieri la Federazione Russa di Putin con l'Unione Sovietica. E poi la vergogna, ancora peggio, è che poi si scusa per i lapsus subito dopo averli espressi con un sorriso da ebete. Il Tabacci, con i suoi continui riferimenti a De Gasperi dalla DC, che è, diciamo, vengono, ecco, come dire, che sono assorti, come vengono presi come paladini delle libertà civili, delle libertà di stampa. Questo Tabacci, che si permette di deridere chiunque ponga i dubbi sulla corsa di armi, così come sull'invio delle armi, che poi tra l'altro la cui topologia è, tra virgolette, democraticamente segretata. E a chi, come abbiamo detto prima, vanno queste armi? Molti si pongono la domanda. Al reggimento Azov, che a sua volta, ecco, dagli eminenti direttori televisivi, non è più considerato un reggimento composto da neonazisti, ma da nazionalisti e quindi da eroi, da patrioti. Quindi siamo totalmente imbrigliati in un clima di propaganda di guerra, totalmente egemonizzato dalle posizioni politiche governative filoatlantiste e filoyenche. Per cui, proprio il nome, ecco, quindi ecco quanti corsi e ricorsi. La DC è il compromesso storico di concezione berlingueriana, che ricordiamo fece la scelta atlantista. Per cui questi corsi e ricorsi, per questi soggetti, diciamo, ex componente della democrazia, della vecchia democrazia cristiana, rappresentano un momento, quale momento più adatto per porre in atto la propria rivincita, quindi la rivincita della vecchia democrazia cristiana contro l'intero movimento comunista. E tutto ciò è permesso dagli ex dirigenti del PC, da tutti gli affiliati al Partito Democratico, a cui sarebbe doveroso aggiungere la parola cristiano, quindi non solo PD, ma PDC, comandato e diretto da un certo Letta. Ed è stato stomachevole anche aver visto le bandiere NATO e degli USA sfilare il 25 aprile, proprio provocatoriamente nell'anniversario della Resistenza, proprio a Milano, città della strage di Piazza Fontana, e per il quale furono subito evidenziate e denunciate le regie, le regie della CIA, degli USA, con altri servizi segreti europei, con la manovalanza neonazista italiana e con le grandi, gravi responsabilità della democrazia cristiana che era al governo. Chiaro, e tali regie, tale sigla che abbiamo precedentemente, che abbiamo detto, la CIA, gli americani, Gladio, eccetera, eccetera, le regie sono state anche per tutto il resto delle altre stragi avvenute in Italia, Italicus, Piazza della Loggia. E così, come dire, sempre proseguendo con il vecchio DC Tabacci e con i Tabacci suoi simili, è altrettanto stomachevole vedere sempre lo stesso Tabacci o i Tabacci di turno che in termini arroganti definivano filo putiniano tutti i Tabacci, non i tabaccisti, sarebbero tutti i tabaccisti che definivano filo putiniano tutti coloro che manifestavano lo sdegno per le presenze di tale bandiera. E sempre a questi tabacci, ai vari tabacci di turno, forse si dovrebbero ricordare i vari tentativi di golpe, e anche come quello minacciato da Kissinger se l'Italia fosse stata governata dalla sinistra rispetto all'esito elettorale del 76. E bisognerebbe sempre, però, a rinfrescare la memoria a questi vari tabacci, cos'era la DC, dove sarà anche il compito di quei giornalisti che su quei climi stragisti di quegli anni hanno prodotto e condotto trasmissioni, a volte serie, a volte interessanti, nelle quali evidenziavano il ruolo e le complicità degli USA nelle varie stragi di Stato insieme alla rete nera internazionale. Questi eminenti giornalisti, che tra l'altro su queste trasmissioni hanno fatto carriera, hanno guadagnato tantissimi soldi, gli eminenti giornalisti, non hanno avuto un minimo di dignità e di corretto comportamento deontologico da giornalisti nel ricordare il ruolo della DC nel periodo stragista, gli stessi non hanno espresso neanche un minimo di indignazione sulle liste di prescrizione del COPASIR verso i putiniani e o filoputiniani, ai quali viene posto il divieto a partecipare ai dibattiti televisivi, a coloro che COPASIR definisce putiniani e filoputiniani. Questo ragionamento, ma anche di stomachevole sensazione, vale anche per quegli eterni figicciotti. Figicciotti era quello che noi li chiamavamo così all'epoca, i giovani, quelli che componevano la federazione giovanile dell'ex Partito Comunista Italiano, che attualmente conducono delle trasmissioni televisive e che sono impegnati mediaticamente a decostruire la storia, finalizzata a presentare come unica massima formazione storica di sinistra fosse stato solo il Partito Comunista. E ricordiamolo sempre, il PC del compromesso storico, la scelta atlantista dei carri armati per strada e davanti all'università negli anni 70. A questi eterni ficicciotti che si definiscono anche di sinistra, o di centro-sinistra, che come Mentana deridono, questi della FIGC uguali a Mentana, che deridono ed in modo sarcastico producono sketch tese a svilire, a deridere chiunque ponga dubbi sull'interventismo militare in territorio ucraino della nazione italiota. Quindi a tutte le affiliate e gli affiliati alle formazioni politiche pacifiste e interventiste, poi quest'altra grande contraddizione proprio, il pacifismo interventismo, che sostengono l'invio delle armi al reggimento Azov, dedichiamo alcune righe di un nostro precedente contributo. Che era dal titolo dal PC al PD, da Berlinguer, da Lema, Renzi e Letta, questi hanno combinato solo guai. In questi decenni le scelte politiche atlantiste del PC avvenute nel 76 sono state caratterizzate da profonde ed errate valutazioni, analisi e riflessioni che hanno condizionato negativamente l'operato e l'agire politico di una certa sinistra, che è poi centro-sinistra o rosso-centro, sia in politica interna che in quella estera, con un unico risultato: la perdita del senso reale della nostra storia, senza comprendere e capirne le varie evoluzioni, o meglio, le involuzioni a cui noi stiamo assistendo. Veramente è con uno spirito, penso che per chi ascolta Radio Asilo, penso che lo sto comunicando anche con, cioè ecco, con tristezza, con preoccupazione, uno spirito non, come dire, non perché stia facendo autocoscienza, ma esprimo lo stato d'animo di tante e di tanti compagni preoccupati. È chiaro, noi dobbiamo sempre continuare e impegnarci ancora di più, mai come ora, non solo nella controinformazione, ma anche nella preparazione di iniziative politiche, di presidi di piazza, di cortei. Per dire, a Salerno il 14 ci sarà un corteo contro la NATO. Abbiamo svolto varie iniziative, presidi contro la guerra, contro la NATO, contro l'invio delle armi da parte del nostro del governo di Draghi all'Ucraina. Ed è chiaro che quello che noi stiamo assistendo, come in questo momento proprio storico particolare, sia difficile aggregare compagne e compagni in un contesto in cui la gente, l'80% della gente è contro la guerra, è contro i soldi e da inviare, da utilizzare per il riarmo, così come è contro l'invio delle armi agli ucraini, all'esercito ucraino, perché la gente lo vive epidermicamente, le paure anche esistenziali, ma non solo esistenziali, paure oggettive, di un'economia di guerra, di un clima di guerra, le paure delle armi e delle atomiche, di cui ne parlano in questi talk show, con questi tabacci, con questi Mentana, con questi Fornigli, con questi Flores, e c'è Bianchi, e c'è Giannini, a cui si aggiunge un certo Mauro, e non Vauro, Mauro. È chiaro che questi parlano di armi e di nucleare così come parlassero di una partita di calcio, di pallone. Ed è questo che preoccupa, è questo che preoccupa e che, ecco, non ci fa dormire sogni tranquilli. Cari compagni, e compagne. È chiaro che noi avremmo voluto festeggiare questo anniversario e sperando, ecco perché facendo i debiti scongiuri per tutti i motivi, per tutti i timori, per tutte le paure che abbiamo detto prima, speriamo di festeggiarlo il 13 maggio del 2023 con concerti, iniziative, dibattiti, festeggiarlo col nostro patrimonio culturale, musicale, artistico. E con questo augurio, cari compagni e compagne, alla prossima.